Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come vi raccontava poco fa il nostro GR, stanno uscendo le prime indiscrezioni sull'incontro a Palazzo Chigi tra l'amministratore delegato del gruppo Fiat Sergio Marchionne e il governo e i sindacati, a cui viene presentato il piano Fiat per l'Italia e soprattutto il destino dei 5 stabilimenti della Fiat in Italia, a partire, visto che è quello su cui più si è discusso, da quello di Termini Imerese. E poco fa Marchionne ha detto: in 2 anni faremo 8 miliardi di euro di investimenti in Italia. Abbiamo una previsione che la domanda di automobili, quindi che le vendite siano stabili nel 2010, e poi ha anche detto che l'operazione Chrysler è un tassello fondamentale per il futuro della Fiat ed è necessario conciliare i costi industriali con la responsabilità sociale. Tra l'altro, poi anche dichiarazioni dei sindacati, c'è un presidio di lavoratori che protesta davanti a Montecitorio e Raffaele Bonanni, segretario della CISL, ha detto: aspettiamo un'offerta ragionevole da parte della Fiat che mantenga tutti i posti di lavoro. Questo per quello che riguarda Fiat. Apriremo però con gli Stati Uniti. La notizia non è bella: la revisione del PIL, della crescita americana nel terzo trimestre, è stata pesante. Invece che un 2,8%, l'economia americana è cresciuta del 2,2%. Insomma, una decurtazione di quasi un 20% rispetto alle prime stime. Nel frattempo Moody's, l'altra grande agenzia di rating, assieme a Standard & Poor's e Fitch, ha declassato il debito della Grecia. Però non c'è stato un grosso scossone sui mercati greci. Dopo che aveva fatto Standard & Poor's, la cosa era ampiamente attesa. E ancora parleremo di nuovo del tema del rapporto padre-figli, del passaggio non generazionale, ma diciamo di che invito alcuni padri stanno facendo ai figli. Ricorderete la lettera che ha fatto molto discutere di Pierluigi Celli, direttore della LUISS, che disse a suo figlio, fu nostro anche ospite: figlio mio, vattene dall'Italia. Una lettera di segno completamente opposta l'ha scritta invece l'amministratore delegato di un gruppo importante in Italia, H3G, Vincenzo Novari, sarà nostro ospite e ne parleremo. 349-238-6666 per i vostri sms. Le notizie in breve, partendo da borsa e export. Allora, i mercati, di nuovo buona la giornata, più 1,2% il FTSE MIB, più 0,80, quindi Milano, più 0,80 Parigi, più 0,4 Francoforte, più 1% Londra. L'America guadagna lo 0,4% sul Dow Jones e anche sul Nasdaq. Euro su dollaro 1,423, continua a scivolare l'euro, adesso va verso quota 1,41. E ancora, per quello che riguarda la borsa, i titoli messi meglio oggi sono Geox più 5,91, Buzzi Unicem più 3,5, ST Microelectronics più 2,70, Banco Popolare più 2,5, Comital Cementi, il 2,1 lo guadagna Enel, il 2% Mediaset e Saipem, l'1,80 Fondiaria, l'1,70 Ubibanca e anche Mediobanca, 1,5% Riazzo di Intesa San Paolo, l'1,4 quello di Tenaris, 1,3 quello di Pirelli e Unipol, Eni più 1% come Unicredit. Pochi titoli che perdono: Bulgari meno 1%, Telecom meno 0,5, Ansaldo meno anch'essa 0,5% di calo, Ansaldo STS. Invece Fiat guadagna lo 0,6%, mentre stanno uscendo le notizie che vi abbiamo appena ricordato. Il numero per i vostri sms, come sempre, 349-238-6666. Ancora, diciamo, dei dati sul commercio con l'estero. A novembre le esportazioni italiane verso i paesi fuori dell'Europa sono migliorate, più 2,6%, con importazioni stabili rispetto a ottobre. Chiaro che più 2,6 rispetto a ottobre. Se si guarda l'anno su anno sono sempre dolori, meno 10% l'export, meno 18% le importazioni. Però se ricordate, a inizio 2009 i cali dell'export erano rispetto all'anno prima del 20, del 22, del 23, adesso siamo a meno 10, vuol dire che la situazione si sta stabilizzando e sta comunque migliorando, anche se non può essere definita soddisfacente. Dicevo, meno 18% le importazioni, quindi la bilancia commerciale, la differenza tra quanto esportiamo e quanto importiamo, resta positiva per l'Italia sulla bilancia fuori dall'Europa, sulle esportazioni fuori dall'Europa. I cali più forti si sono avuti anno su anno, quindi rispetto a novembre 2008, negli Stati Uniti meno 24%, in Russia è un dramma l'export di tutti i paesi verso la Russia era un grande compratore di Made in Italy, meno 31%, il Giappone meno 23%, l'OPEC, quindi il produttore di petrolio, meno 11. Il dato interessante, anche se come poi peso non è altissimo, è che la Cina, cioè l'export italiano verso la Cina, è cresciuto ed è cresciuto anche di tanto rispetto a un anno fa, più 8,5%. Nei settori, la meccanica rispetto sempre a un anno prima, a novembre, ha fatto meno 13% quanto a export fuori dall'Europa, l'elettronica meno 14, l'abbigliamento meno 23, la chimica più 4, la farmaceutica più 21, i mobili meno 13. E adesso partiamo con il primo tema della nostra puntata. Alcuni di voi ci scrivono al 349-238-6666 dell'accordo CIR Fininvest. Ve ne hanno già parlato i nostri GR, CIR Fininvest, questa mattina davanti ai giudici della seconda corte d'appello. Hanno raggiunto un accordo che permetterà di sospendere l'esecutività della sentenza con cui praticamente Fininvest doveva pagare 750 milioni di euro alla holding della famiglia De Benedetti. Comunque, di questo la CIR ha tempo fino al prossimo 3 febbraio per costituirsi in appello. Comunque, di questo vi hanno parlato già i nostri GR. Partiamo con il primo tema e mi riferisco al dato del PIL, cioè dell'economia americana, nel 2009, a sorpresa, rivisto e rivisto anche di un bel po' a ribasso. Invece che del 2,8%, l'economia americana è cresciuta del 2,2%. Uno può dire, vabbè, ma sono decimali, ma in realtà, se uno va a vedere, significa aver ridotto di un quinto, quasi un quarto, la stima sulla crescita economica americana. Dato arriva nel momento in cui il Senato americano ha aperto la porta all'approvazione entro Natale della riforma sanitaria, che praticamente è la riforma su cui Obama si sta giocando tanto, tanto della sua permanenza alla Casa Bianca. Parliamo del PIL, ma anche della riforma sanitaria americana. I dati economici oggi riguardano anche la vendita di case americane, cresciute a un livello alto, il più alto dal 2007. Ne parliamo con Mario Platero, storica voce anche di Radio 24, storico corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Mario, buonasera. Eccoci, buonasera. Sì, hai detto bene, infatti, per questo dato sul PIL, anche perché se lo confrontiamo sul primo livello che ci avevano dato per la crescita del secondo trimestre, eravamo addirittura al 3,5%, quindi ben al di sopra del 3%. Poi siamo scesi al 2,8, adesso siamo scesi al 2,2, si conferma insomma un po' lo scenario di una ripresa non forte, di una ripresa che tra l'altro proprio per il quarto trimestre potrebbe essere ancora più debole di quel che ci aspettiamo. Guardando in avanti, questo dato di aumento del 7,4% delle vendite di case per novembre ovviamente porta in qualche modo un messaggio un po' più rassicurante, un dato dinamico, quindi che guarda in avanti invece di guardare indietro. Però direi che il quadro di fondo ci conferma quello che interessa di più gli investitori, e cioè che alla fine la Federal Reserve lascerà totalmente invariati i suoi dati sui tassi di interesse. Non ci sarà un cambiamento dei tassi a breve. Qualcuno si aspettava che questo potesse succedere dopo che abbiamo visto un piccolo rimbalzo sul fronte dell'occupazione, e quindi c'è stata un po' di agitazione anche sui mercati, perché la dinamica che abbiamo un problema di collegamento con Mario Platero, adesso lo riprendiamo subito. Mi interessava molto questo ragionamento perché te lo stavo raccontando come questo dato, cioè si è partiti da una previsione di crescita economica nel terzo trimestre americano al 3,2, poi la si è ridotta al 2,8, adesso si è ridotta al 2,2 e avendo eroso un terzo della crescita prevista è praticamente impossibile che i tassi americani, quindi il costo del denaro americano, vengano rialzati a breve. Questa è un'indicazione molto importante per quello che riguarda le politiche della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, anche perché quando la Banca Centrale Americana inizierà a alzare i tassi sarà un segnale per tutto il mondo, immagino anche per la Banca Centrale Europea, ammesso che non lo faccia prima la BCE, e su questo fronte sarà quello il segnale che si è entrati nella cosiddetta exit strategy, e cioè la via d'uscita dalla crisi. Nel frattempo, mentre stiamo cercando di tornare a ripristinare il collegamento con Mario Platero, l'altro elemento, visto che ce lo chiedete, riguarda la riforma sanitaria che punta ad assicurare oltre 30 milioni di americani. Alcuni di voi vogliono sapere com'è il dato sulla vendita di nuove case, ve lo dico subito, più 7% è il livello più alto di nuove case, di case esistenti, scusatemi, vendute in America dal febbraio del 2007, questo come mese di novembre. E ancora, dalla riforma sanitaria americana, la promessa che Obama ha ottenuto dal Senato è quella di arrivare a un'approvazione entro Natale della riforma sanitaria. Però vedo che ci ha chiesto la linea il nostro Vincenzo Miglietta, e quindi lasciamo in attesa Mario Platero, saltiamo subito a Palazzo Chigi, dove è in corso l'incontro tra Sergio Marchionne, il governo e i sindacati sul piano Fiat. Vincenzo. Sì, iniziano a trapelare i dettagli del piano industriale che l'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne sta illustrando a governo e sindacati. Dettagli importanti, Sebastiano: abbiamo un piano ambizioso per la Fiat, soprattutto in Italia, avrebbe detto Marchionne aprendo la riunione a Palazzo Chigi. Nei prossimi 2 anni gli investimenti del lingotto nel nostro paese ammonterebbero a 8 miliardi di euro. Poi una puntualizzazione da parte del manager della casa torinese: bisogna conciliare i costi industriali con la responsabilità sociale, avrebbe proseguito Marchionne. Il puro calcolo economico avrebbe conseguenze dolorose che nessuno vuole, ma un'attenzione esclusiva al sociale condurrebbe alla scomparsa dell'azienda. Chiaro questo il riferimento allo stabilimento di Termini Imerese che la Fiat vuole riconvertire, cessando lì la produzione auto ritenuta antieconomica. E poi da Marchionne anche alcune previsioni sul 2010. Sebastiano. No, grazie Vincenzo, era quello l'aggiornamento che aspettavamo, anche perché ne parleremo dopo nei mercati finanziari. Torneremo a parlare del piano, anche perché stanno uscendo altri dettagli a borsa chiusa. Grazie però a Vincenzo Miglietta in collegamento con noi da Palazzo Chigi. Torniamo a parlare, dopo aver fatto questa specie di breaking news dentro il programma, a parlare di America. Mario Platero di nuovo con noi. Stavi dicendo, il dettaglio della stima sulla crescita americana è stato così netto, dal 3,2 al 2,8, adesso al 2,2, che ci fa immaginare che per un bel po' i tassi di interesse americani non verranno toccati. Sì, gli investitori in questo momento, perché la dinamica di mercato su cui si è costruito tutto il rally di quest'anno poggia appunto su i tassi di interesse molto bassi, su questa stabilizzazione di tassi di interesse appunto sui livelli attuali, soprattutto qua in America. L'idea era che potessero rimbalzare o che la Fed potesse cominciare a cambiare la sua posizione dopo che abbiamo avuto un dato sull'occupazione così un po' diverso rispetto a quelli negativi del passato, ma direi che davanti a dati di questo genere che confermano una debolezza o comunque non una forza tale di fondo dell'economia che possa produrre quel livello di occupazione di cui c'è bisogno in America, ecco, i tassi per i prossimi 4, 6, 8 mesi, diciamo per i prossimi 6 mesi, dovrebbero restare come sono. Questo è un po' l'elemento di fondo. Ecco, passiamo alla riforma sanitaria, perché io citavo anche le abitazioni americane, ma insomma la riforma sanitaria, Obama si gioca molto, non si gioca solo la parte economica, ma sui costi si è capito qualcosa di più? Perché è chiaro che l'opposizione dei repubblicani, insomma, assicurare a livello sanitario 30 milioni di americani che attualmente non hanno la nostra mutua, diciamo, la copertura sanitaria, avrebbe un costo di 870 miliardi di dollari in 10 anni. Questa è l'idea. Dimmi. Sì, questa è l'idea. Allora, abbiamo 870. Allora, intanto cominciamo a dividere. Di questi 30 milioni di persone, 15 andranno a finire quasi certamente sotto la copertura del Medicaid, cioè di quel programma per l'assistenza sanitaria ai più poveri, che già esiste in America, e quindi si tratterà di allargare i parametri minimi per di reddito per entrare in quella categoria. E quindi 15 milioni di americani, diciamo, avranno l'assicurazione, fra virgolette, gratuita. Gli altri invece dovranno obbligatoriamente sottoscriverla con compagnia di assicurazione. Finora non erano obbligati a farlo, persone anche della classe media che sceglievano semplicemente di non comprare l'assicurazione medica e quindi di stare non assicurati. Ecco, d'ora in avanti costoro dovranno farlo e quindi sosterranno direttamente le spese di acquisto di polizze di assicurazioni speciali, particolari, in alcuni casi ci saranno delle condizioni, insomma ci sono mille dettagli, però ecco, la metà di questi avrà il servizio, come dire, garantito. Dopodiché abbiamo una parte che sarà sulla, diciamo, che poggerà sullo Stato e che riguarda diciamo, delle classi di popolazione così, che sono leggermente più in difficoltà. Allora, ti ripeto, non ci sono dettagli specifici, però a fronte di questi 870 miliardi e poi altri 125 miliardi ci sarà un introito fiscale. Quindi queste cifre di cui parliamo sono le cifre per coprire quei 15 milioni che andranno sotto le casse dello Stato, gli altri se lo pagheranno per conto loro. L'impianto fiscale è quello che preoccupa di più i democratici sul piano politico, perché ci sarà un aumento delle tasse che andrà a ricadere su popolazione con un reddito individuale di 200 mila dollari e reddito familiare di 250 mila dollari. E quindi è un reddito ovviamente elevato, ma non elevatissimo. Non è chiaro quanto sarà l'aumento di questa aliquota. Ci saranno altri aumenti degli introiti per lo Stato che deriveranno da imposizioni di nuovo fiscale che saranno, certo, fatte su produttori di equipment medico, di equipaggiamento medicale e così via, così via. Quindi c'è una dinamica politica molto delicata. Da una parte c'è la vittoria di Obama, dall'altra ci saranno i repubblicani che da qui alle elezioni del novembre prossimo batteranno su questi temi. Ultimo tema che mi interessava toccare con te, Mario Platero, dopo la crescita economica americana che a questo punto si conferma più modesta delle attese, più piatta delle attese, e la riforma sanitaria che invece sembra andare in porto pur con tutti i caveat, con tutti, diciamo, i limiti anche a cui tu facevi riferimento. Il terzo aspetto è il grande tema della riforma della classe finanziaria americana. La chiamo classe perché a nostro avviso è una vera e propria classe. E i manager di Wall Street, abbiamo visto i dati anche recentemente, è tornata la polemica, ne hanno parlato anche i giornali italiani, super bonus, mi dispiace insistere sempre su questo tema, ma siccome da lì nasce anche un po' tutto, vorrei capire come non prepararsi a un nuovo tsunami. E allora, ce la fa il timido, giovane e forse anche un po' troppo amico di Wall Street, Timothy Geithner, a farsi ascoltare, a fare una faccia feroce, come dicono a Napoli, nei confronti della classe finanziaria e dei manager finanziari di Wall Street, oppure questi se lo stanno mangiando come un agnellino? Ma dunque, allora, il dibattito in corso, la questione è che ci sono dei personaggi che ai margini di Wall Street riescono a fare dei profitti straordinari, dei operatori di hedge fund, e che quindi in qualche modo creano una forma di concorrenza nei confronti delle grandi banche di Wall Street. Sto pensando solo recentemente a questo manager che è riuscito a fare a guadagnare 7 miliardi di dollari, si chiama David Tepper, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi sul giornale. Ecco, questo signore aveva scommesso sul fatto che le banche sarebbero tornate a guadagnare e dunque in questo contesto ha fatto degli investimenti veramente molto aggressivi a febbraio-marzo, quando tutti pensavano che potessero essere nazionalizzate. Ebbene, gli è andata bene, ha guadagnato appunto 7 miliardi di dollari, personalmente ne ha incassati 2 miliardi da solo. Il suo è un fondo molto piccolo, è un fondo che è localizzato in New Jersey, neanche a Wall Street. L'ironia è che questo signor Tipper, messo da parte a Goldman Sachs alcuni anni fa, una quindicina d'anni fa, non gli diedero la promozione e lui quindi si mise per conto proprio e cominciò a fare business per conto proprio. Ecco, le banche, e secondo me, io concordo con te su questo, è una finta giustificazione, dicono: ma noi dobbiamo tenere i nostri uomini migliori in casa, perché se no quelli vanno a lavorare per hedge fund minori dove prendono premi di 200, 300, 100 milioni sì. di dollari e così. Questo... E quindi questa è la scusa. Però, scusa, tanto per finire, il problema è che le banche hanno un ruolo istituzionale e delle garanzie, sottolineo, che i hedge fund non hanno. E dunque questa deve essere la differenza fondamentale che il Tesoro sta cercando di fare in qualche modo comprendere a Wall Street, e Wall Street resiste. La mia impressione è che nel breve faranno buon viso a cattivo gioco, nel medio termine si tornerà un po' alle abitudini di sempre. Allora Mario Petero, io ho un'ultima domanda per te, ti chiedo estrema sintesi, ti leggo prima alcuni dati e poi la domanda. I profitti degli utili delle banche americane, le big, le grandi banche americane, si avviano ad archiviare un trimestre da favola. Profitti sono cresciuti in media dell'11%, immaginate un po' grazie a che cosa? Grazie alle operazioni sugli strumenti derivati, ma come derivati, quella che ha scatenato la peste bubbonica di fine 2007, ebbene sono tornati a essere utilizzati a man bassa. JP Morgan chiuderà l'ultimo trimestre del 2009 con utili solo di provenienza da trading, da operazioni anche su derivati, per 3 miliardi di dollari. Goldman Sachs, operando sugli strumenti altamente a rischio, guadagnerà 700 milioni di dollari nell'ultimo trimestre del 2009. Bank of America 500 milioni di dollari e Wells Fargo 300 milioni di dollari, tutti guadagnati facendo finanza pura, finanza derivata. Non è un caso quindi che negli ultimi tre mesi del 2009 tutti siano tornati a giocare come facevano prima dello scoppio di questa crisi epocale, che di epocale ha per ora la distruzione di posti di lavoro in Europa e anche in America. Ebbene, dicevo, nell'ultimo trimestre il valore dei derivati è tornato a 204 mila miliardi di dollari. 204 mila miliardi di dollari, il 97%. Di questi strumenti finanziari a rischiosi, rischiosissimi, sono in mano alle banche. 204 mila miliardi di dollari, nemmeno riesco a dirlo. E a testimonianza della ritrovata età dell'oro, Goldman Sachs, che chiuderà l'anno con utili per 11 miliardi di dollari, quindi nemmeno un anno ha sofferto, andrà e si trasferirà nel nuovo quartier generale di Manhattan, un grattacielo di 43 piani costato 2 miliardi di dollari. Allora Mario Platero, la domanda mi sembra molto chiara. Insomma, nel Gattopardo il principe di Salina spiega, se non ricordo male, a Tancredi: occorre che tutto cambi perché tutto resti come prima. Sì, ecco Sebastiano, secondo me è giusto quello che dici, non dobbiamo esagerare, nel senso che poi i derivati, gli strumenti derivati fanno parte della costellazione degli strumenti finanziari che si usano nel settore finanziario e quindi resteranno, a meno che non si decida di eliminarli, ma non credo che questo succederà. Sono d'accordo sul fatto che le banche stanno in qualche modo esagerando nel tornare a metodi del passato, uno, e due, nello sfruttare una situazione che era stata creata per aiutare soprattutto l'economia, e cioè tenere dei tassi di interesse molto bassi, e invece questi signori che cosa fanno? Con questi tassi di interesse molto bassi si indebitano in dollari, cambiano i dollari in valuta, investono la valuta in borse straniere di mercati emergenti che stanno tornando a fare abbastanza bene e quindi fanno una speculazione a breve usando poi su quegli strumenti derivati che li consentono di moltiplicare ovviamente l'investimento. Questo meccanismo spiega e giustifica anche in qualche modo il fatto che poi il dollaro si sia indebolito, perché questi signori prendono in prestito il dollaro e poi vanno fuori. C'è stato un momento di panico quando ci fu l'incidente del Dubai, perché improvvisamente si tornò un po' sul dollaro e ci furono una gran quantità di questi investitori che si trovarono con delle posizioni a breve da dover coprire. Però Dubai rientrò subito, fu una cosa molto contenuta e quindi il modello poi è andato avanti. Però è un discorso di fondo che secondo me non tiene, o tiene solo fino a un certo punto. Proprio perché di nuovo le banche in questo momento, invece di approfittare di questo denaro a buon mercato per poi restituire alle aziende sotto forma di prestiti, non lo fanno, cercano di fare soldi il più possibile così speculando semplicemente sul mercato. Il paradosso è che tutto sommato questo non dispiace poi più di tanto alle autorità. Perché? Perché l'obiettivo delle autorità è di rafforzare i parametri di capitale di queste banche, quindi l'idea è che tu, Goldman Sachs, grazie a questi bassi tassi di interesse potrai fare molti profitti, però una buona parte di questi 11 miliardi di dollari li destinerai a rafforzare il tuo capitale e quindi a creare dei parametri di solidità di cui abbiamo bisogno. Ecco, è un'equazione in divenire e quindi, come si dice, the jury is still out, ancora non c'è un pronostico preciso, però è uno degli elementi e degli aspetti più interessanti che sta capitando in questo periodo a Wall Street e quindi stiamo un po' col fiato sospeso a vedere che cosa succede. La borsa peraltro, come vedi, continua ad andare relativamente bene, quindi però non ci sono sentori di preoccupazione. L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità e l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Telltale Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Volta settimana come col pesce, Gordon Gekko ce lo dobbiamo rispolverare. Grazie, grazie Mario Platero e se non ci sentiamo prima, buon Natale a te e ai colleghi del Sole 24 Ore negli Stati Uniti. Adesso il metodo, la pubblicità e poi la borsa. Borsa che ha chiuso bene, più 1%. Il FTSE MIB, più 0,70 Parigi, più 0,3 Francoforte, più 1% Londra. Tra i migliori titoli vi anticipo che c'è Geox, più 6,5 e Buzzi Unicem, più 3,1. Il peggiore Bulgari, ma un po' di realizzi sono, meno 1,1%. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, parliamo adesso di borsa, più 1% la chiusura dicevamo, vedo alcuni messaggi al 349-238-6666, non possiamo tornare sul tema dei bonus, ai manager, però torneremo a parlare, vi anticipo una cosa, dopo Natale faremo una puntata sui luoghi comuni, le frasi fatte, gli stereotipi di cui si riempiono, che sommergono delle volte il lavoro di chi sta in un'azienda, in un gruppo, in un grande gruppo, in una società, con gli autori di Zot, che alcuni di voi hanno sentito, quei quattro consulenti d'azienda che hanno messo sotto forma di sketch, insomma una specie di fantozzi dei tempi moderni. Comunque adesso la borsa. Seconda giornata positiva, titolo migliore diciamo a Piazza Affari, Geox, più 6,5%. Il motivo, Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore? Per quanto riguarda la giornata positiva, va detto che un'influenza positiva un po' su tutte le borse, caratterizzata da un buon rialzo dell'energia, dei farmaceutici, ma anche di assicurazioni e auto, che non ha trovato un freno eccessivo dalla revisione del PIL degli Stati Uniti per il terzo trimestre. Per quanto riguarda invece la brillante performance di Geox, va segnalata l'indicazione arrivata da Merrill Lynch Bank of America, che fino a ieri aveva le azioni Geox nella lista, diciamo così, tra dei meno degli investimenti da non preferire, diciamo così, tra i meno preferiti, si può usare questa brutta espressione, ha tolto questa indicazione sul titolo, un titolo su cui già c'era una certa attenzione da qualche giorno, e oggi si è dimostrata la migliore. Cioè, fammi capire, Merrill Lynch, Bank of America, ha detto per giorni interi, settimane se non ricordo, che il titolo Geox era un titolo da non comprare, questo voleva dire, non era quello da tenere nel portafoglio. Poi, in assenza di notizie, ho capito bene, non è successo niente, non è che Moretti Polegatto ha dichiarato qualcosa, non c'è nessuna notizia, dice che è da comprare, il titolo guadagna il 6,5%. Sarebbe interessante sapere se Merrill Lynch ha comprato ieri prima di dire oggi che era da comprare. Però sono malizie inaccettabili, quindi andiamo avanti. Buzzi Unicem più 3,1 e Steam Electronics più 2,90. Beh, per quanto riguarda Buzzi, oggi è una buona giornata dei cementieri, e diciamo che gli investitori che sono attenti a reintercettare una ripartenza di settori ciclici come appunto quello delle costruzioni si sono ben ricoperti sia su Buzzi che su Italcementi, che ha guadagnato il 2,5%. Per quanto riguarda invece ST Microelectronics, ha potuto sfruttare la revisione a rialzo delle stime da parte della concorrente tedesca Infineon, e in generale ha potuto sfruttare anche un'ottima giornata dei produttori di microchip, che hanno toccato un po' tutti i nuovi massimi dell'anno e sono arrivati a trattare a livelli superiori al crack Lehman, quindi al settembre del 2008. Sì. Ancora Banca Popolare più 2,5, dicevamo Saipem più 2, Enel più 1,94%, Mediaset più 1,7%, Ubibanca più 1,6%. Beh, su Mediaset ha pesato più l'accordo con CIR o diciamo l'operazione spagnola su Telecinco? Beh, certamente l'operazione spagnola che in questi giorni è passata, diciamo così, dai tavoli dei legali e degli advisor per le varie firme alle tavoli, diciamo, degli analisti e delle case di investimento che studiano quali possono essere le sinergie e le potenzialità di sviluppo per Mediaset. Ieri ricordiamo che Telecinco nel corso della conference call aveva sottolineato come la politica dei dividendi di Telecinco non verrà modificata, non verrà peggiorata. Ha parlato di sinergia, ma non è ancora stata fatta una stima. Invece le case d'affari incominciano a vedere quali sono le possibili sinergie, mentre era, diciamo così, nelle cose l'accordo per la sospensione del pagamento e risarcimento tra Fininvest e CIR, appunto sulla causa civile relativa al lodo Mondadori. Ma su questo in effetti non ci sono stati particolari o specifici effetti di mercato. CIR ha chiuso leggermente sottotono, perdendo lo 0,4%, i titoli della Galassia, Fininvest sono stati positivi, Mediaset come abbiamo ricordato, Mediolanum è stata piuttosto piatta, ha chiuso più 0,12%, Mondadori invece ha ceduto uno 0,4%. Allora, il Rebus Snam, perché lo chiamo Rebus? Perché ieri il titolo ha chiuso in calo, era uno dei peggiori, se non ricordo male il peggiore tra quelle maggiore capitalizzazione, dopo un'ipotesi che Eni possa, che controlla Snam, possa scendere sotto il 50%. Dico Rebus perché non si capiva come mai. Di solito quando diminuisce la quota di controllo e il titolo diventa più appetibile, un titolo sale in borsa, non scende. Oggi ha ripreso qualcosa, Snam infatti ha chiuso alla fine con uno 0,6% di rialzo, Eni con l'1%. Si è capito come mai ieri Snam si è scivolata? Beh, non, diciamo così, non c'è stata maggior chiarezza rispetto all'andamento dei titoli di ieri. Va detto che magari il mercato, insomma, riducendosi la presenza di Eni, si aspettava magari una presenza di titoli sul mercato maggiore, quindi una vendita sul mercato di una parte, e questo magari poteva penalizzare il titolo. Nell'incertezza oggi, anche con un settore energia particolarmente brillante, visto che l'indice degli energetici in Europa ha guadagnato più dell'1%, hanno riguadagnato terreno sia Eni che Snam. Va detto che Snam oggi ha anche annunciato di aver ottenuto un prestito dalla Banca Europea degli Investimenti per 300 milioni per due nuove pipeline, una in Puglia di gas, una in Puglia e uno in Lombardia. Diciamo che certamente i titoli sono ancora destinati a un certo nervosismo, fino a che non si chiarirà appunto quali sono un po' le strategie Eni su Snam. E poi l'ultimo titolo che commentiamo, Bastoggi. Se ne parla poco, un storico titolo di borsa, le Bastoggi. Ma insomma, oggi ha fatto un botto del 16,5% in più. Si morderà le mani chi avrebbe potuto comprarla ieri. Dicevo, più 16,5% in più. Su che cosa? Sì, ieri è stata annunciata questa vendita della partecipazione detenuta nella SRL Nuova Accademia, che è la società che gestisce la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Su questa operazione Bastoggi ha realizzato una plusvalenza di 18 milioni, e va detto che si è mossa brillante rialzo anche Brioschi, titolo collegato facendo parte dello stesso gruppo di riferimento di Bastoggi, che ha venduto e poi riaffittato l'area di Milano Fiori per 73 milioni, notizia che è stata annunciata al mercato ieri in tarda serata, e anche Brioschi ha risposto con un più 5% sul mercato. Peggiore in assoluto il Credito Bergamasco, meno 4,5, poi Montefibre sul risparmio, Classe Editori meno 3%, Autostrade Meridionali meno 2,80, poca roba. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore. 349-238-6666 per gli sms. Chi ci chiede quando avremo ospiti i personaggi di Zot? Un po' di pazienza, dopo il Natale, quindi dopo il 27, per parlare in maniera molto allegra di temi molto seri, ossia certi luoghi comuni, ideologie aziendali, convention, target, obiettivo, sinergie, team building, tutta questa roba qui, un po' come i target price che certe banche americane danno su certi titoli che fanno calzature in Italia. Di nuovo in diretta per parlare adesso di export e poi rifare il punto sul Fiat. Vedo che tra l'altro oggi, l'agenzia di un'ora fa, è arrivato via libera definitivo con l'approvazione di oggi dei ministri europei alla proroga di 15 mesi dei dazi sulle calzature in pelle provenienti dalla Cina e dal Vietnam. La decisione entrerà in vigore il 3 gennaio e quindi viene prorogato il regime di dazi per le calzature dalla Cina e dal Vietnam. I dazi, lo ricorderete, ci occupiamo tantissime puntate del tema, nel 2006 vennero introdotti a ottobre per 2 anni, Bruxelles li aveva poi riesaminati l'anno scorso, praticamente restano quindi senza modifiche i dazi in vigore per le calzature con tomaie in cuoio tra il 9,7% e il 16,5% tasse provenienti dalla Cina, il 10% per quelle importate dal Vietnam. E allora parliamo di importazioni e esportazioni. Perché il dato di oggi è un dato buono, come ricordavamo in apertura, mese su mese, più 2% l'export italiano fuori dall'Europa, che è quello che ci interessa di più, perché è quello che insomma, vede anche che ci dà il senso di come il Made in Italy si stia imponendo o soffre sui mercati internazionali. Certo, rispetto a un anno prima siamo ancora un meno 10%, cioè rispetto a novembre 2008, ma ripeto, a inizio del 2009, quando si faceva il raffronto con l'inizio 2008, le cifre erano meno 20, meno 25, meno 30. I settori che soffrono: chimica più 4, è uno di quelli che va meglio, farmaceutica più 21, e poi invece sono dolori ancora anno su anno per la meccanica, meno 13, i mobili meno 13, l'abbigliamento meno 23%, i mezzi di trasporto meno 26%. Le destinazioni: meno 24% in America, meno 31% in Russia, meno 23% in Giappone, più 8% in Cina. Ed è la Cina a rappresentare la vera sorpresa, cioè tutto il mercato asiatico. Chiedo conferma al segretario generale dell'Associazione delle Camere di Commercio Estere, cioè italiane all'estero, dottor Esposito, buonasera. Sì, buonasera a lei, radioascoltatori. Un po' che non c'è. La Cina, come ha detto lei, è una sorpresa. In realtà c'è anche un dato positivo sull'India, però è una sorpresa relativa, nel senso che noi ci siamo sentiti già un mesetto e mezzo fa, commentando alcuni dati, dicevamo che l'extra Europa ci avrebbe riservato delle soddisfazioni. In verità l'extra Europa sta facendo un po' le montagne russe, se vogliamo dire, un mese sale, un mese scende, eccetera. Però vorrei ricordare che la sensazione che noi abbiamo dalle Camere italiane all'estero, intervistando i loro associati, è che molte imprese stanno reagendo alla crisi, parlo di imprese già presenti all'estero, ricercando nuovi sbocchi di mercato. Ecco, la presenza Cina può essere interpretata in questo modo. Ricordiamo poi che la Cina è di fatto il paese che ha registrato un tasso di crescita più elevato a livello mondiale, quindi in qualche modo sta ancora, non ha mai smesso rispetto ad altri paesi di crescere, seppure ha rallentato la sua corsa. Quindi di questo le imprese italiane se ne sono accorte. Se ne sono accorti in realtà da tempo, perché la presenza in Cina non può essere una presenza congiunturale, però ecco, questa politica entra nella diversificazione, diciamo, che molte imprese stanno facendo. Mentre 3-4 anni fa noi le vedevamo tutte concentrate sull'Europa, adesso Cina, India, anche Russia. Purtroppo il dato sulla Russia è un dato molto negativo e molto pesante per la posizione che ha assunto il mercato russo, però sono ormai mercati in cui c'è una certa familiarità di presenza di imprese, e c'è anche, diciamo, una voglia di fare non soltanto la vendita, che praticamente in questi mercati è molto difficile, ma anche di accompagnare la vendita con strutture stabili all'estero. Sì, su questo devo dire che è migliorato. Una delle cose che poche volte vengono dette sui giornali, io poi non so perché spesso sui giornali si parli poco del nostro export, che insomma rappresenta il 40%, no? Del nostro, sì, PIL. Per cui, però, insomma, la cosa interessante è che siccome la crisi ha colpito più le importazioni che le esportazioni, in realtà la bilancia il saldo è migliorato, cioè la bilancia commerciale italiana è migliore dell'anno scorso, anche se noi esportiamo un 15-20% in meno, però importiamo un 20-25% in meno, e quindi migliora la bilancia, il saldo tra quanto esportiamo e quanto importiamo. Esattamente come dice lei. È come se uno guadagnasse di meno ma spendesse di meno, alla fin fine il saldo è positivo. Certo che sarebbe meglio guadagnare di più, poter spendere anche di più, però contributo netto, diciamo, evidentemente, quindi cioè quelle che poi si dicono le esportazioni nette, le esportazioni al netto delle importazioni. Devo dire, se guardiamo poi l'ultimo saldo extra UE, vediamo che addirittura abbiamo migliorato di quasi 7 volte, insomma, diciamo, per effetto, come dice lei giustamente, di questo gioco congiunto esportazioni-importazioni. Io vorrei fare anche una battuta sulla meccanica, giustamente citando i dati di tassi di variazione, abbiamo tutti i settori che stanno andando meno bene rispetto a un anno fa, questo, ma un anno fa appartiene ad una storia che non esiste. Siamo presenti che la meccanica però sull'extra Europa fa sempre 23 miliardi di saldo positivo tra gennaio e novembre 2009, cioè continua a confermarsi in maniera vorrei dire molto forte, diciamo, un settore, il settore di punta, e anche questo poi alla fine, come dice lei, spesso sui giornali non viene enfatizzato, chiaramente non viene enfatizzato perché noi ci guardiamo i dati di rispetto ad un anno fa, i dati ma dai, Spoto, perché piace più la polemica delle volte che la cifra, che i numeri, questo è anche il motivo, e questo colpa anche della categoria a cui appartengo. Detto questo, i 23 miliardi di saldo positivo che fa la meccanica industriale italiana, pur in estrema difficoltà perché esporta un 20% in meno rispetto all'anno scorso, sono tre manovre finanziarie grazie alle imprese metalmeccaniche del paese. E tra l'altro io ricordo chi scrive al 349-238-6666 che i paesi fuori dall'Europa ormai rappresentano il 40% di tutto il nostro export e il 25%, cioè una su quattro di tutte le esportazioni delle imprese italiane sotto i 50 dipendenti, quindi le piccole e le piccolissime. Attenzione, perché questi paesi stanno diventando sempre più importanti. Grazie e buon Natale e buon anno al segretario generale delle Camere di Commercio Italiane all'estero, Gaetano Esposito. Ultimo aggiornamento, perché vedo le agenzie uscire, torniamo a collegarci con Palazzo Chigi, dove c'è appunto il nostro Vincenzo Miglietta, che ha seguito l'incontro tra Sergio Marchionne, numero uno della Fiat, il governo e i sindacati. Quanti soldi investirà la Fiat in Italia? Marchionne lo ha detto, lo abbiamo raccontato all'inizio programma, 8 miliardi. Però adesso sono arrivate le notizie più attese, quelle sugli stabilimenti Fiat a Pomigliano, ma soprattutto Termini Imerese. Vincenzo. Sì, di nuovo buon pomeriggio. Stop dunque alla produzione delle auto a Termini Imerese dal dicembre del 2011. Aumento comunque della produzione in Italia in tre anni, dalle attuali 650.000 vetture ad 1 milione. Investimenti sempre nel nostro paese nel prossimo biennio per 8 miliardi di euro, con 11 nuovi modelli in arrivo. Queste le linee portanti nel piano industriale della Fiat illustrate da Marchionne a governo e sindacati. Su Termini Imerese ha spiegato comunque il manager: siamo disposti a discutere proposte di riconversione con la regione Sicilia e con gruppi privati. Marchionne ha puntato il dito anche sullo stabilimento di Pomigliano, così non può reggere, ha detto, servono incentivi. A Pomigliano tra l'altro potrebbe arrivare la produzione della nuova Panda. In riferimento all'occupazione, il manager del Lingotto ha aggiunto: c'è una forte disparità dei livelli di utilizzo della manodopera tra gli stabilimenti Fiat italiani ed esteri. Quindi Vincenzo, se ho ben capito, dopo aver confermato, l'avevamo dato in apertura, 8 miliardi di investimenti in due anni in Italia, però quando si è arrivato agli stabilimenti, la Fiat ha ancora 5 stabilimenti in Italia, Termini Imerese non ci sono speranze, l'abbiamo già capito, così com'è non va, e nel 2011, dal dicembre del 2011 chiude lo stabilimento siciliano della Fiat. Condizioni di svantaggio competitivo e difficoltà strutturali. E per quello che riguarda Pomigliano, anche su Pomigliano occorre fare una ristrutturazione, chiamiamola così. Assolutamente, Marchionne ha detto che Pomigliano va ristrutturata, quindi qualora si procedesse su questa strada servono da una parte incentivi che evidentemente sono statali, dall'altra parte ammortizzatori sociali, in quanto lo stabilimento rimarrebbe chiuso e fermo per un diverso periodo di tempo, poi però potrebbe tornare alla produzione, e qui è stato detto potrebbe essere prodotta la nuova Panda, Pomigliano così non va al momento. Vedremo poi le reazioni dei sindacati. Grazie Vincenzo Miglietta, in collegamento con noi da Montecitorio. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. E allora, come promesso, ci occupiamo adesso di un tema che già altre volte avevamo toccato, e mi riferisco a una lettera famosa, ormai famosa, da parte del direttore generale della LUISS, Pierluigi Celli, che fu anche nostro ospite, scrisse, ricorderete, figlio mio lascia questo paese. Ne è uscita un'altra di lettera, che a me non piacciono le contrapposizioni, ma insomma una lettera che va in tutt'altra direzione, in tutt'altra direttrice, perché l'ha scritta l'amministratore delegato di Tre, e si chiama Vincenzo Novari, e ha detto in sostanza una cosa completamente diversa: se scappi ora, scappi per sempre. Di questo parleremo nella seconda parte di Focus Economia. Prima però, come sempre, alcuni aggiornamenti dei mercati e notizie in breve. La borsa americana continua a essere positiva, mentre a chi ce lo chiede diamo anche una risposta a alcuni messaggi al 349-238-6666. L'euro non è a quota 1,41, è 1,425, comunque sempre debole. L'America guadagna adesso lo 0,4%, Milano ha chiuso bene con un rialzo dell'1%, molto forte Geox più 6,5%. Di Fiat abbiamo ampiamente detto, mentre confermo anche qui rispondendo agli sms che Bruxelles ha prorogato i dazi per il settore calzaturiero verso la Cina e verso il Vietnam, fino al 16% le tasse in più verso la Cina e fino al 10% per le calzature importate dal Vietnam. E allora andiamo con il primo tema, con il tema, scusatemi, di questa seconda parte, e cioè le lettere che i padri scrivono ai figli. La troviamo una cosa assolutamente normale, nulla di scandaloso. Quella dello scorso 30 novembre, ricordate, Pierluigi Celli disse: figlio mio, abbiamo fallito, se posso darti un consiglio, vai all'estero, qui non c'è merito, non c'è riconoscimento del merito, e quindi vai nei paesi dove invece questo merito viene riconosciuto anche e soprattutto ai giovani. Ne abbiamo letta un'altra, appunto Vincenzo Novari, il titolo potrebbe essere: chi scappa ora, caro figlio, fugge per sempre. L'episodio, se non ricordo male, era relativo a un esame che il figlio doveva sostenere, e Vincenzo Novari scrive: forse per la prima volta a 18 anni tutto ti è sembrato troppo pesante per le tue spalle, mi hai chiesto, sintetizzo la lettera, di poter non andare a scuola perché la verifica arrivava in un momento no per te, un esame che doveva sostenere, ti ho risposto di no, ti ho detto che quando scappi la prima volta nella vita, prima o poi ce ne sarà sicuramente una seconda e poi una terza, e dopo un po' diventerà il tuo modo di vivere. E dopo che sei scappato la prima volta e poi la seconda e poi la terza, dopo non è mai colpa tua, dopo c'è sempre un buon motivo per scappare, una persona con cui è meglio non confrontarsi, un appuntamento importante al quale non presentarsi. E caro figlio, domani mattina vai la tua verifica a testa alta, non importerà il voto, se sarà un 5 lo festeggeremo perché sarà un 5 che avrai preso senza darti per vinto. Vincenzo Novari, amministratore delegato di Tre, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Intanto ci dica che cosa ha preso il figlio all'esame poi. C'è scritto, poi ho preso 7,5. Vabbè. Ho preso 7,5, quindi voglio dire, è riuscito comunque a farcela. Ecco, al di là poi del caso singolo, a noi interessava, i giornali l'hanno voluto proporre come una lettera contro quella di Celli. Io non so se sia contro Pierluigi Celli, ma sicuramente il tenore e il tono è diverso. Lei in sostanza, con questo esempio, con la richiesta di un figlio di 18 anni che vuole l'autorizzazione a non presentarsi a un esame, lei l'ha legata al tema della fuga, e il tema della fuga era il tema portante anche della provocazione di Pierluigi Celli: fuggi, vai all'estero. In quel caso era un fuggire verso luoghi in cui viene riconosciuta la tua bravura, il merito è l'elemento dominante. Nel caso suo invece la fuga assume un significato negativo? Ma sì, ma io credo che, voglio dire, il fatto di riscontrare, di ritrovare in questo nostro paese tutti i problemi che obiettivamente ci sono, non vuol dire, soprattutto come segnali per le nuove generazioni, il fatto di mollare, il fatto di lasciar perdere, di andare a cercare paesi dove sia sostanzialmente più semplice emergere. Io non sono di questo avviso, sono che proprio per la ragione della situazione in cui ci troviamo e della quantità di lavoro che c'è da fare, il posto per i nostri giovani è questo, il posto è rimboccarsi le maniche, prepararsi adeguatamente, andare a fare esperienza all'estero senz'altro, ma poi tornare qui e mettersi a lavorare come hanno fatto i loro nonni, come abbiamo fatto male noi padri e come spero facciano meglio loro. Sì, e questa è la parte, diciamo, diversa. Lei conclude tra l'altro la lettera: noi, caro figlio, in effetti, anzi, tu, lei scrive: a te Giulio e ai tuoi compagni della generazione del 90 dico che il vostro futuro è qui, nel vostro paese. A te Giulio dico che se non siete orgogliosi del vostro paese, anche quando avrete legittimi motivi per criticarlo, è difficile essere orgogliosi di voi stessi. La sfida è rimanere per cambiarlo, questo paese, dove serve, col tempo che ci vuole, forse anche un sempre. Ci sarà tanto da fare, figlio mio, e tocca a voi. Noi in effetti ci meritiamo un bel 5. Ed è sul 5 che lei si autoassegna come generazione che invece io ho trovato qualche punto di vicinanza con la lettera di Celli. Anche perché lei non nega che il contesto in cui suo figlio, e qui lo usiamo chiaramente a livello di del tipo, va a operare, sia un contesto simile a quello che descriveva anche Celli. Lei scrive: tu sai quanto ami il nostro paese, continua a arrabbiarmi, lei scrive un'altra cosa, ogni volta che vedo il suo potenziale sprecato, continuo a discutere spesso ad accapigliarmi con ministri, burocrati e presidenti vari, quasi tutti a Roma si fanno chiamare così. Continuo a non capire perché la nostra struttura pubblica sia al tempo stesso così ipertrofica e assente, perché i meccanismi legislativi siano così ridondanti, perché ogni volta che si parla con i sindacati italiani sembra che l'istinto di autoconservazione dell'apparato prevalga sempre sull'interesse dei lavoratori. Continuo a non capire perché le nostre televisioni siano invase da pessimi esempi per voi giovani e nascondono in maniera quasi scientifica quanto di più bello produce il nostro paese. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Allora, Vincenzo Novari, se il consiglio diametralmente opposto, lei a suo figlio dice resta, e qui che dovrai accettare la sfida, se scappi una volta scapperai sempre, troverai sempre un buon motivo per giustificare la fuga, ma l'analisi è simile, cioè i modelli che la generazione a cui lei appartiene state dando e avete dato ai vostri figli di 18 anni sono modelli, è un'Italia che non vi piace. Ma è un'Italia luce e ombra, non è un'Italia che non ci piace, è l'Italia che ci hanno lasciato i nostri genitori, l'Italia su cui abbiamo lavorato male noi, però è un'Italia luce e ombra, dove sicuramente, voglio dire, l'amore delle ombre è un amore importante, sicuramente le parti che non funzionano della nostra macchina paese sono tante, ma è anche vero che a fianco di questo ci sono delle componenti che continuano a essere, come dire, dei riferimenti per tutti quelli che operano a livello internazionale. Io ho sempre lavorato in aziende private e posso dire che le aziende, le filiali italiane delle grandi multinazionali di solito funzionano molto meglio di tante altre consociate europee. Posso dire che ci sono degli ambiti industriali, dei settori industriali dove l'Italia eccelle. Posso dire che il prodotto italiano, la marca Italia è una marca che funziona benissimo ancora in una grande parte del mondo estero. Quindi voglio dire, sicuramente il fatto di riconoscere che ci sono dei problemi non ci deve portare a fuggire, ci deve portare ad affrontarli e ci deve portare a impegnare, a cercare di capire con chiarezza cosa non va e lavorarci sopra. Allora, questo, diciamo, è l'approccio diverso, però io qualche domanda in più ce l'ho anche per lei, perché innegabile che, insomma, i modelli, che il paese sia luce ed ombre. Sono d'accordo con lei, avendo lavorato anch'io all'estero, che non è vero che nelle società all'estero siano più efficienti di quelle italiane. La differenza però, Novari, è data da quello che si chiama il criterio di selezione e l'ascensore sociale. Perché? Perché su questo, da un lato, come abbiamo più volte ricordato, si è bloccato l'ascensore sociale in questo paese, e cioè il 40% dei figli, degli avvocati, dei medici tendono a fare l'avvocato e il medico, e le possibilità di mobilità intragenerazionale sono bassissime. Dall'altro, all'estero, tu vieni selezionato per il curriculum che hai, per la scuola che hai fatto, per qualunque altra cosa, non perché sei figlio di. E qui arriviamo anche alla critica che alcuni ascoltatori muovono alla lettera sua e di Celli, al 3492386666. È facile dirlo, se uno è figlio di Pierluigi Celli o di Vincenzo Novari, cioè di persone che hanno tutta una rete di rapporti, di posizione sociale e quindi comunque ne usciranno avvantaggiate. Se questo è l'invito che voi date ai vostri figli, cosa dovrebbe fare il figlio e il signor Nessuno e il padre il signor Nessuno? Ma guarda, io le posso dire questo: la mia famiglia è una famiglia dove per 20 anni io sono cresciuto sentendo parlare di problemi di soldi, dove mia madre e mio padre discutevano se comprarmi un cappotto o un paio di scarpe. Io Novari lo sono diventato perché ho studiato, Novari sono diventato perché ho cercato di comportarmi sempre in maniera onesta, perché ho lavorato come un matto e ho costruito tutto quello che non avevo. Oggi non esiste che queste possibilità non ci siano. Ci siano e continuano ad esserci in azienda, in tutte le nostre aziende ci sono dei ragazzi che hanno dei livelli di crescita importante che vengono da niente. Il fatto che in alcune corporazioni esista ancora questa auto-perpetuazione della specie non vuol dire che valga in tutto. Ripeto, il settore del privato mi sembra un ottimo esempio. La piccola azienda è una piccola azienda dove spesso ai figli dei proprietari invece si sostituiscono dei manager che possono far funzionare le cose meglio. Quindi ripeto, io non sono d'accordo, credo che oggi quello che noi dobbiamo dire ai nostri figli è: studiate, impegnatevi e lavorate. E allora questo è chiaro, dice, se ce l'ho fatta io ce lo potete fare anche voi. Il sospetto e il dubbio che in realtà la condizione in cui suo figlio va a operare adesso sia peggiore di quella in cui ha operato lei quanto a mobilità sociale, cioè, io ricordo il rapporto di Italia Futura, l'abbiamo avuto ospite anche la relatrice, il 40% degli italiani sopra i 50 anni dice che ha migliorato il proprio stato sociale. Se uno lo chiede ai trentenni si scende al 20%. E il nostro paese, dopo l'Inghilterra, quello in cui in Europa è più forte la correlazione tra il reddito del padre e il reddito del figlio. Ecco, lei ha la sensazione che in realtà l'ambiente competitivo, come si chiama in gergo, sia più difficile per suo figlio che per lei, ce l'ha o no? Ma questo assolutamente sì, che la situazione sia diventata più difficile è sicuramente vero, anche perché, voglio dire, oggigiorno a competere con i nostri figli non ci sono solamente gli altri ragazzi italiani, ma ci sono ragazzi che arrivano da tutto il mondo. Domani mio figlio competerà nelle stesse multinazionali in cui ho lavorato io, competerà con ragazzi indiani, con ragazzi arabi, con ragazzi cinesi, perché questo sarà il loro mercato di riferimento. Però il fatto che sia più difficile non vuol dire che bisogna andare via, vuol dire che bisogna impegnarsi ancora di più e vuol dire che bisogna sfruttare gli asset che si hanno, cioè sfruttare la propria intelligenza, impegnarsi e non andare a ricercare invece dei modelli che sono molto più facili e molto più leggeri. Cioè, voglio dire, io continuo a vedere, ed è una parte che tocca anche in questa lettera, cioè la nostra televisione che ci parla sempre di persone che sostanzialmente trovano i soldi in maniera estremamente facile e non ci propone mai, voglio dire, le storie di chirurghi, di avvocati, sì, eccetera, che studiano e ce la fanno e si godono la loro vita, beati a loro, insomma. Sì, è un po' come raccontare che per diventare ballerino, cantante non serve fare anni e anni di scuola, di conservatorio e quant'altro, basta fare un corso televisivo. Ma sì, ma no, è sbagliato il messaggio che passiamo. Cioè, il messaggio non deve essere: per eccellere a fare ballerino devi conoscere la persona giusta. Per eccellere a fare ballerino devi essere più bravo degli altri, allenarti di più, studiare di più. Questo è il messaggio. Un'ultima domanda, me la girano sempre gli ascoltatori, dottor Novari. Lei queste logiche le applica anche in 3 Italia, ex H3G, cioè il gruppo che lei dirige? Assolutamente sì, guardi, io credo di essere tra le aziende, diciamo, tra le grandi aziende italiane, credo di essere l'unico che, ad esempio, ha una prima linea che è fatta prevalentemente di donne, che non abbiamo messo a fare il direttore del personale, il direttore delle relazioni esterne, ma abbiamo messo a fare il direttore generale delle operazioni, il direttore generale tecnico. Non credo, almeno non mi risulta che ci siano tanti casi del genere. Allora, in bocca al lupo non tanto a lei, ma a suo figlio Giulio, a questo punto, perché lei, anche insomma, a me ne ho bisogno. Va bene, in bocca al lupo a lei come società, perché ci sono anche i dipendenti. Esatto. Buon Natale a Vincenzo Novari, messo legato Natale, di 3. Buon Natale, grazie a tutti. Vedo che i messaggi al 349-238-6666 si spaccano in due. Chi sta con Celli, chi sta con Novari. Lo sapevo che nel paese dei Guelfi, dei Ghibellini, di Bartoli e Coppi si andava a finire così. In realtà, ripeto, l'analisi di fondo non è molto diversa. Se leggete le due lettere, quello che è diverso è la soluzione. In un caso si dice vai all'estero, nell'altro caso si dice no, accetta la sfida qui nel tuo paese. E la sfida la dovranno accettare anche i dipendenti di Termini Imerese. Ci ricolleghiamo con Vincenzo Miglietta, perché dopo le dichiarazioni di Sergio Marchionne vorrei sapere gli ultimi aggiornamenti. Marchionne ha chiarito al governo e ai sindacati che Termini Imerese chiuderà nel dicembre del 2011, che anche Pomigliano si fermerà perché deve essere ristrutturata per forse produrre poi la nuova Panda. E questo per quello che riguarda due dei cinque stabilimenti della Fiat in Italia. Le reazioni del governo e dei sindacati, Vincenzo? Sì, siamo al momento delle reazioni. Prima il governo, il ministro per lo sviluppo economico Scajola ha detto la criticità è Termini Imerese, non possiamo perdere quel polo industriale. Scajola avrebbe anche chiesto uno sforzo congiunto di azienda, enti locali e governo. Abbiamo il tempo, ha detto Scajola, di mettere insieme le risorse. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, Fiat, ha detto troverà anche in Italia la stessa responsabilità che ha trovato in America da parte del governo centrale. Prime reazioni dei sindacati, ricordo tra l'altro che un presidio di lavoratori dei vari stabilimenti è qui davanti a Montecitorio dal primo pomeriggio. Siamo molto amareggiati per la decisione della Fiat di non produrre più auto a Termini Imerese, non possiamo accettarlo, la reazione del sindacato e dei lavoratori sarà dura, hanno detto dalla Wilm. Beh, certo che il Termini Imerese è uno stabilimento altamente improduttivo, tra l'altro proprio oggi Marchionne lo ha ripetuto, non è competitivo, non è concorrenziale, ma insomma una riqualificazione industriale, come si dice in gergo, andrà trovata anche per quei dipendenti, per quello stabilimento. Grazie per ora e per oggi a Vincenzo Miglietta, da Sebastiano Berisoni a voi in ascolto l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.